GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Natisone non ha ancora restituito Christian Molnar, il giovane di 25 anni ufficialmente disperso, un'ottantina fra vigili del fuoco e personale della protezione civile che anche con unità cinofile stanno perlustrando dall'alba le sponde e le acque del fiume. A Udine, nella camera ardente allestita nei pressi del cimitero, nel pomeriggio con una cerimonia religiosa si darà l'ultimo saluto a Patrizia Kormos e a Bianca Doros. Le loro bare subito dopo partiranno alla volta della Romania. Aziende sanitarie obbligate a garantire ai cittadini le prestazioni specialistiche entro tempi accettabili anche attraverso il personale intramenia o il privato accreditato. Lo prevede un decreto del governo che stabilisce che le visite possono essere effettuate anche il sabato e la domenica. Nasce anche a Trieste, presso le ACLI, lo sportello per dare assistenza a chi si ritrova sovraindebitato verso banche e finanziarie. Non riguarda situazioni patologiche come il gioco d'azzardo o lo shopping compulsivo, ma soprattutto persone qualunque con reddito medio. In soccorso arriva il microcredito. Oggi la giornata mondiale dell'ambiente, siamo andati alla riserva marina di Miramare, scopriremo in quale maniera esperti e volontari del WWF tutelano un autentico gioiello di natura e bellezza. Col Diretti intanto lancia i suoi Oscar Green, i premi per giovani imprenditori che si impegnano nel campo della sostenibilità. Pallacanestro, Trieste ha vinto 72-65 ieri sera a Cantù, gara 1 della finale playoff, ribaltando da subito il fattore campo. Già domani sera gara 2, sempre a Desio. Nel GR il commento di Sandro De Pol, focalizzato proprio sulle finali. Sulle tracce di Coco Bill, Jack Mandolino e Zorri Chide, Iacovitti come non l'avete mai visto, 170 opere originali di Benito Iacovitti in mostra da domani al 13 ottobre al Palazzo del Fumetto di Pordenone. L'abbiamo visitata in anteprima. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. All'alba sono riprese lungo il corso del fiume Natisone le ricerche di Christian Molnar, il 25enne di nazionalità romena disperso da venerdì pomeriggio. Mobilitate circa 80 persone tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile del Friuli Venezia Giulia con elicotteri, droni, imbarcazioni adatte a questo particolare tipo di interventi. L'area perlustrata giunge all'immissione del Torre che a propria volta è un affluente dell'Isonzo. Il fratello di Christian Molnar è tornato stamattina sul ponte romano dove per l'ultima volta è stato visto il 25enne prima di essere inghiottito dal fiume Natisone. Manca solo lui e l'appello e per questo, per il sesto giorno consecutivo, le operazioni proseguono. Si cercano tracce di Christian anche con l'ausilio dei cani, scandagliando gli argini e guadagnando il corso d'acqua ove possibile. Operativi, elicottero e droni, oltre ai vigili del fuoco, impegnate la Guardia di Finanza e la Protezione Civile, i cui volontari comunali ben conoscono segreti e insidie del Natisone, i cui argini in questi giorni sono invasi di rigogliosa vegetazione e di tronchi di alberi trascinati via dalla piena. Nessuna corrispondenza tra un tessuto bianco trovato ieri su una griglia di uno sbarramento più a valle e la maglietta indossata da Christian Merdì, sempre bianca, lo hanno appurato i carabinieri, quali è stata affidata l'indagine della procura per omicidio colposo per verificare eventuali responsabilità omissive penali nella catena dei soccorsi. Tutto è successo rapidamente, in 35 minuti circa dalla prima chiamata di allerta arrivata da Patrizia. Gli elicotteri sono arrivati dopo che la corrente aveva portato via i tre ragazzi, ma adesso è il momento di tentare di restituire alla famiglia Molnar almeno il corpo del loro ragazzo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine, campo formido, quella di oggi una giornata di lutto cittadino. Da stamattina è ripreso l'omaggio ai feretri di Patrizia e Bianca. Alle 16 si terrà una preghiera secondo il rito ortodosso e poi le due bare partiranno per la Romania, dove sabato si terranno le esequie. Bandiere a mazzassa e tricolore listato di nero nel comune di Campoformido per il lutto cittadino decretato dalla prima cittadina per la tragedia del Natisone. Una delle ragazze ritrovate, Patrizia Kormos, risiedeva al Basaldella di Campoformido e la tragedia ha colpito tutta la comunità. I ragazzi non hanno fatto attenzione e poi dopo quello che è successo, mi dispiace. Sono d'accordo per il lutto cittadino, mi dispiace tantissimo, però io penso che non sono presente, non posso giudicare, ma potevano salvarsi se uscivano prima. È una tragedia, sì, è inspiegabile, nonostante tutte le ricerche che sono state fatte sulla modalità in cui sono successe queste cose è una cosa che colpisce come cittadino, ma come genitore. Intanto continua il via vai di amici, parenti e semplici cittadini che con un fiore o una preghiera hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alle famiglie. Sembra giusto portargli qualcosa, salutarli, perché hanno la nostra età. Io abito vicino a Cormons, però mio papà, che è cresciuto in quelle zone, andava sempre là e si poteva evitare, secondo me. Visto i pompieri che facevano di tutto, continuavano a lanciare queste corde e poi ho dovuto dare un passaggio che mi è stato chiesto da un dipendente del comune. Era disperato, mi ha detto non sono riusciti a prendere la corda che continuavo a lanciargli da sotto, dalla spiaggetta. L'ho accarezzato tanto, guardi, ha detto sono un papà, sono un nonno e... era disperato anche lui, si sentiva, ha detto io mi sento in colpa. Conoscevo ma sono la mamma. Sono andata a fare un saluto e insomma a stare vicino ai genitori. Una preghiera, una candelina e che facciano un buon viaggio. Alle 16 il decano della Chiesa Ortodossa Romena del Triveneto, padre Florin Kierekers, assieme ad altri sacerdoti e al vescovo ausiliare Atanasio, celebrerà la benedizione prima della partenza delle due salme per la Romania, dove sabato si celebreranno i funerali. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento, la sanità. Con un decreto il governo cerca di affrontare l'annosa questione delle lunghe liste d'attesa. Le regioni saranno poi anche sottoposte ad un monitoraggio della situazione. Il servizio dalla redazione centrale di Roma è di Francesca Cosentino. Per la riduzione dei tempi delle liste di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche, il governo ha varato un decreto con misure urgenti che sono state presentate a Palazzo Chigi dal ministro Orazio Schillaci. Se le prestazioni non verranno erogate nei tempi previsti, ha detto, le aziende sanitarie devono garantire ai cittadini le prestazioni o in intramenia o attraverso privato accreditato. E poi ha aggiunto, faremo in modo che ci siano visite diagnostiche anche il sabato e la domenica e verrà superato il tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario già da quest'anno, con un incremento di spesa dal 10 al 15%, mentre nel 2025 il tetto di spesa verrà abrogato. Il tutto in accordo con le regioni, alle quali, ha detto Schillaci, si chiede la massima collaborazione insieme ad ASL, medici e tutto il personale sanitario. Ci sarà poi un sistema di monitoraggio da parte di Agenas delle liste di attesa regione per regione, con liste che devono rimanere sempre aperte e non dovrà verificarsi, ha precisato il ministro, che un medico faccia più visite in intramenia che nel servizio pubblico. Ci sarà inoltre copertura finanziaria per gli straordinari del personale. Le regioni che hanno da poco avuto il testo definitivo del decreto si riuniranno nei prossimi giorni per far pervenire al governo, informa il coordinatore per la sanità Raffaele Donini, osservazioni e proposte di modifiche. Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per le elezioni europee. Nel nostro giro fra i partiti in competizione è il turno di Azione, la formazione politica fondata da Carlo Calenda, che a Trieste ha tenuto un incontro con due dei suoi candidati. Un'Europa più unita e più forte per rispondere alle sfide globali, ma anche un'Europa che deve cambiare radicalmente paradigmi, tornando a puntare sulla produzione di ricchezza che genera benessere con l'innovazione tecnologica come strumento fondamentale. Il tutto nella cornice europea del Partito dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici. Questa è in estrema sintesi la proposta politica di Azione, il partito di Carlo Calenda, ribadita in un incontro pubblico a Trieste con Carlo Fei, manager internazionale di lungo corso e professore alla LUISS di Roma, e con la candidata regionale Federica Sabbati. Dobbiamo non ritornare a un'Europa delle nazioni come alcuni propongono, ma anzi rafforzare ancora di più la nostra unione, perché piccoli stati di fronte a grossi blocchi come la Cina o gli Stati Uniti o anche l'India non riusciamo ad affrontare né dal punto di vista economico né dal punto di vista politico della difesa. Sfide globali che hanno ricominciato a comportare l'uso delle armi, da qui, secondo Azione, la necessità di un esercito europeo unico, e la posizione di Sabbati a proposito della guerra russo-ucraina è molto netta. Bisogna come Europa continuare a difendere i nostri confini e continuare a difendere l'Ucraina, perché sta difendendo lei stessa anche i nostri valori e i nostri confini. Altro punto chiave del programma di Azione è l'intenzione dichiarata di puntare su candidati di riconosciute capacità, in grado di esaminare i dossier europei in tutta la loro complessità per influire davvero sulle decisioni prese a livello comunitario. Trieste, Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Ministero dell'Interno è stato condannato definitivamente con una sentenza del Consiglio di Stato a risarcire la famiglia di un vigile del fuoco deceduto per esposizione all'amianto. Si conclude così la lunga vicenda giudiziaria di un vigile del fuoco triestino deceduto nel 2008 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Consiglio di Stato ha condannato il Viminale a riconoscere un ulteriore risarcimento di 140.000 euro alla famiglia, oltre agli indennizi già assegnati di 230.000 euro. Il vigile del fuoco, che aveva prestato servizio per 34 anni presso il comando del capoluogo regionale, era stato esposto a livelli elevatissimi di fibre di amianto, indossando guanti e tute antincendio realizzate con questo materiale. Il Ministero dell'Interno inizialmente aveva negato la connessione tra la morte e l'esposizione all'amianto. Tuttavia, in seguito all'azione legale presso il Tribunale di Trieste, è stato riconosciuto il legame causale e lo status di vittima del dovere e la famiglia aveva ottenuto un primo risarcimento dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2020. Il Ministero aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, ma la richiesta di sospensione della condanna è stata rigettata, rendendo definitiva la sentenza. Arriva anche a Trieste lo sportello contro il sovraindebitamento e per il microcredito, è gestito dalle ACLI e aiuta gratuitamente coloro che si trovano in difficoltà economica, in aumento in questi tempi di perdita di potere d'acquisto e di continui inviti a comprare ora e a pagare dopo. C'è chi gioca d'azzardo, chi soffre di shopping compulsivo, ma nella maggior parte dei casi chi si indebita ben oltre le proprie possibilità non ha nevrosi. Spesso si tratta di persone con reddito medio che per rispondere a esigenze comuni della vita quotidiana comprano a rate, magari con le carte di credito revolving, oppure chiedono prestiti alle finanziarie o la cessione del quinto dello stipendio. Poi da cosa nasce cosa? Salgono i tassi, le finanziarie continuano a proporre nuovi prestiti, fino a quando ci si rende conto di essere in una spirale di angoscia e solitudine, con decine di migliaia di euro di debiti accumulati. Una via d'uscita c'è. Esistono in tutta Italia e ora anche a Trieste gli sportelli gratuiti contro il sovraindebitamento e per il microcredito. Manuel Zeriul, presidente ACLI Provinciale Trieste. Nasce dall'esperienza della Fondazione Welfare di Pordenone e attraverso l'impulso un po' della regione si è voluta creare altre esperienze analoghe nelle altre province. L'esigenza nasce da un fenomeno sociale che voi avete intercettato come problematico, in crescita. Che succede? Sì, diciamo che ci sono quelle persone in fascia grigia, diciamo, no? Che hanno dei redditi non altissimi ma neanche nella soglia di povertà, per cui hanno difficoltà quotidiane, difficilmente sono bancabili, hanno delle difficoltà e noi cerchiamo in qualche maniera di intervenire in quella fascia. Un servizio dove è garantita la riservatezza e un ascolto senza giudizio, aperto a tutti, anche per rispondere a dubbi di chi non è sicuro. Qual è l'approccio della persona con problemi economici? Ilaria Norma Ligas, responsabile dello sportello sovraindebitamento. Ad esempio, una strada da percorrere è quella di avere un altro finanziamento che chiude tutti quanti quelli precedenti, in modo di averne uno solo e più tutelato tramite il nostro aiuto. La regione fa da garanzia per questi nuovi finanziamenti che vengono dati. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo l'arresto di quattro passeur dei giorni scorsi, un altro arresto è stato effettuato dalla Polizia Municipale di Trieste nella zona compresa tra Gropade e Opicina, a seguito di numerose segnalazioni sulla presenza di migranti nelle vicinanze. Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso è stata fermata un'autovettura con targa ceca, entrata in territorio nazionale da una strada secondaria e poco frequentata. Fermato il veicolo, gli agenti hanno trovato al suo interno, oltre al conducente, un 25enne di nazionalità russa, sette cittadini siriani, due di loro addirittura nel portabagagli, sprovvisti di documenti. L'autista del mezzo è stato tratto in arresto per presunto favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. I cittadini siriani, quattro dei quali minorenni, dopo essere stati rifocillati, sono stati ospitati in una struttura convenzionata. In considerazione delle loro condizioni fisiche, sono stati denunciati a piede libero per ingresso illegale sul territorio nazionale. Nei giorni scorsi, presso il valico di Stupizza, nel comune di Pulfero, i finanzieri della compagnia di Cividale del Friuli hanno sequestrato un machete, un coltello e un pugnale da lancio, oltre a 45 grammi di marijuana e a un francobollo di LSD, rinvenuti a bordo di un'auto in ingresso in Italia e proveniente dalla Repubblica Ceca. Il guidatore ha dichiarato di volersi recare a Grado per una vacanza, ma nel corso dei controlli del mezzo i finanzieri hanno prima rinvenuto la sostanza stupefacente e poi le armi bianche. L'uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Udine. Un settore strategico per l'economia del Friuli Venezia Giulia, occupa oltre 2.000 persone, senza tenere conto delle centinaia di addetti dell'indotto e il valore di mercato che movimentiamo si aggira attorno al miliardo di euro all'anno. Lo sottolinea Giorgio Sina, riconfermato presidente del gruppo Confcommercio Federmotori della Regione. Vice è stato indicato Stefano Zomero della provincia di Pordenone, in consiglio anche Giorgio Pelizzon della provincia di Gorizia. Sina, al terzo mandato da presidente regionale, assicura un lavoro sulla linea della continuità che ci vede sempre tutelare le imprese associate davanti ai tavoli istituzionali. La Regione è pronta ad investire 2,5 milioni di euro per la valorizzazione e l'adeguamento dell'aeroporto di Gorizia con l'obiettivo di ospitare grandi eventi in vista, in prima battuta, della capitale europea della cultura 2025. È stato infatti dato formale avvio all'iter istituzionale per la stipula di un apposito accordo di programma a questo scopo fra Regione, Comune di Gorizia e l'aeroporto di Gorizia, società consortile Amedeo Duca d'Aosta. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo in occasione del tavolo tecnico riunitosi nella sede della Regione a Udine. L'aeroporto di Gorizia è uno dei pochi luoghi in Regione ad avere una superficie sufficientemente vasta per ospitare manifestazioni di grandi dimensioni. Sono le 12:47, passiamo al meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla costa, da variabile a coperto in pianura e in montagna. Queste le temperature registrate alle 11:00, a Trieste 21 gradi e 5 decimi, il mare è quasi calmo con temperatura di 22 gradi, a Pordenone e Gorizia 23, a Udine 21 gradi e 5 decimi, in Aramontana, Tolmezzo 21 gradi e 5 decimi, Tarvisio 20 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 19,5, Biancavallo 13,5 gradi. In quota su Monte Zoncolan 11 gradi, sulla costa Lignano 24,5 gradi, a Grado 22,5 gradi. La temperatura del mare in entrambe le località è di 22 gradi. Le previsioni: in giornata cielo da poco nuvoloso sulla costa, a variabile sui monti, con possibili locali rovesci anche temporaleschi, più probabili sulla zona montana nel pomeriggio, 20 a regime di brezza. La giornata mondiale dell'ambiente che si celebra oggi compie 50 anni e anche l'età della riserva marina di Miramare, gestita dall'associazione ambientalista WWF Nazionale, un'area protetta che tutela natura e paesaggio. Proteggere la natura per proteggere noi stessi è lo spirito della giornata mondiale dell'ambiente che celebra la biodiversità e invita ad affrontare le sfide ecologiche di quest'epoca. Per tutelare la natura serve rispettarla, ma anche creare ambienti speciali dove possa essere conservata e studiata. A Trieste c'è l'oasi marina protetta di Miramare, gestita dal WWF Nazionale, zona protetta che non vuol dire chiusa. Il responsabile dell'area marina protetta, Maurizio Spoto. Miramare, per esempio, può essere visitata durante tutta l'estate con il Sea Watch, ma senz'altro l'elevata biodiversità che si mantiene al suo interno è dovuta al rispetto del divieto di pesca e del divieto di transito con le imbarcazioni a motore. Vige il divieto assoluto di ingresso per chiunque, a parte il soggetto gestore che entra, per esempio, con una imbarcazione anche di tipo elettrico per fare attività di ricerca, monitoraggio e molta educazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. L'area marina permette di osservare l'impatto del cambiamento climatico. Senz'altro stiamo assistendo ad un cambiamento anche del tipo di popolamento delle comunità che abitano l'area marina protetta. Per esempio, una, quella più evidente a tutti, è l'aumento delle meduse in periodo estivo, ma ormai anche tutto l'arco dell'anno. L'oasi esiste dal 1972, quasi 50 anni, e anche la giornata mondiale dell'ambiente compie mezzo secolo. Si può fare un bilancio. Pietro Bonicioli, presidente WWF Friuli Venezia Giulia. Il tema della sensibilizzazione a livello di tutela dell'ambiente è aumentato sicuramente moltissimo negli ultimi 50 anni. Il cittadino comune si accorge molto di più delle problematiche a livello ambientale, sia globali che regionali che anche locali. Quindi sicuramente abbiamo fatto importanti passi avanti. Tanto resta da fare. Ridurre la quantità di rifiuto che viene prodotta sia a livello della persona singola che a livello di aziende e industrie, ma soprattutto anche il minor consumo di carne, cercare di riutilizzare il più possibile le risorse naturali che non vadano appunto a finire nel rifiuto, nel mare o nei nostri oceani. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 800 in Friuli Venezia Giulia le aziende agricole gestite da under 40, giovani imprenditori cui si rivolge anche quest'anno il concorso Oscar Green, il premio all'innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l'economia dei propri territori e raggiungere l'obiettivo della sovranità alimentare. Le domande di partecipazione potranno essere inviate alla Segreteria Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa entro il 30 giugno. Giunto alla 18ª edizione, ricorda il presidente regionale di Coldiretti, Martin Figheli, dal 2006 ad oggi il premio ha visto decine di migliaia di imprese giovani presentare i propri progetti, con risultati particolarmente soddisfacenti per l'agricoltura regionale, che più volte ha conquistato la vetrina nazionale. Passiamo allo sport con il basket. La Pallacanestro Trieste ha vinto ieri sera la gara 1 dei play-off per la promozione in A1, battendo in trasferta Cantù per 65-72. Domani la gara 2 alle 21 in diretta su Rai Sport. Sul match di ieri sera e le prospettive della compagine giuliana sentiamo Sandro De Paul, commentatore di Rai Sport e del podcast Palla A2, che sarà online nel pomeriggio con focus proprio sulle finali. Ho visto una Trieste che continua l'ottimo lavoro fatto fino adesso, che ha cominciato dalla prima partita dei quarti contro Torino, una squadra in fiducia, una squadra compatta, una squadra che è in missione, come dicono gli americani, on the same page, tutti sulla stessa pagina, tutti con lo stesso obiettivo, quindi una squadra con il morale molto alto. Domani c'è già gara 2, cosa pensi possa cambiare e se Trieste deve cambiare o adattarsi ai cambiamenti che farà Cantù? Fra una serie e l'altra, fra una partita e l'altra, non è che puoi fare tantissime modifiche. Penso che la differenza sostanziale sia, più che tecnica, sia mentale. Trieste è una squadra che sta bene, in fiducia, mentre dall'altra parte Cantù non ha mai risolto i suoi problemi di continuità. Dall'inizio dell'anno assistiamo sempre a una squadra molto ondivaga, che può andare altissimo come anche in basso, con alcuni suoi uomini che hanno sicuramente dei problemi invece di fiducia al tiro e di confidenza con il canestro. Ieri tantissimi tentativi dai tre punti, 40 addirittura, anche buoni tiri presi bene, però non sono stati in grado, non hanno avuto la fiducia per poterli realizzare. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La cultura si intitola La frontiera di celluloide, il cinema e la questione di Trieste, il libro di Walter Zele, docente di filosofia e storia al liceo artistico di Udine, in cui si approfondisce la controversia internazionale che dal 1945 al 54 divise le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale sull'assetto politico del territorio di Trieste e del confine circostante, ed esamina i film dedicati alla vicenda. Il libro sarà presentato dall'autore a Trieste, alla Mediateca della Cappella Underground in via Roma alle 17:30. Abbiamo intervistato Zele per chiedergli quante pellicole si occuparono della questione del confine orientale. Diciamo un numero non enorme di pellicole, diciamo una quindicina, però considerando che sono uscite nel giro di 6-7 anni il numero può essere cospicuo. Sono pellicole che hanno insistito o su quello che era accaduto e stava accadendo a Trieste dal 43 al 45 e poi gli eventi immediatamente successivi, pellicole che talvolta hanno anche romanzato su una pagina ovviamente difficile e dolorosa come la netta delimitazione confinaria che da un momento all'altro, da un giorno all'altro, mi riferisco all'applicazione di quanto previsto dal Trattato di Pace di Parigi del 47, ha diviso terre, case, proprietà, affetti, cimiteri tagliati in due, tanto per ricordare una famosa immagine fotografica di quegli anni, o hanno toccato in maniera talvolta ambigua il problema dell'esodo, ma c'è anche spazio per una pagina apparentemente, diciamo così, più lieve, più leggera, più accattivante, ovvero sia il gioco di spie che avveniva in queste terre in quegli anni. C'è un piccolo sottofilone, dico piccolo perché i titoli non sono numerosi ma sono significativi, in cui Trieste diventa, per un momento almeno, una delle capitali di questa straordinaria e affascinante geografia fantastica della narrativa di spionaggio. Possiamo fare il titolo di qualche film? Sì, sono i film in cui vi proporrò alcuni brevi estratti. La città dolente, in cui si parla della condizione degli italiani che vivono a Pola. Cuori senza frontiere, in cui si parla di un ipotetico ma mica tanto paesino carsico diviso in due dal nuovo confine. E poi appunto chiudiamo con una pagina meno opprimente, meno drammatica, con un bel film di azione, di spionaggio, che è Corriere diplomatico, film statunitense, in cui appunto Trieste diventa a tutti gli effetti quasi non solo un teatro dell'azione, ma quasi una vera sorta di vera e propria coprotagonista, potremmo dire, della vicenda. Sono 170 le opere di Iacovitti, fumettista molisano mancato nel 97, in mostra al PAF di Pordenone fino a metà ottobre. L'esposizione, che aprirà i battenti domani, è suddivisa in 12 sezioni e si avvale di un prestito dalla figlia Silvia. Al Palazzo del Fumetto di Pordenone è arrivata la nuova esposizione Iacovitti come non lo avete mai visto, 170 opere originali di Benito Iacovitti in mostra da domani fino al 13 ottobre. Un viaggio in 12 sezioni nello stile del geniale fumettista, autore tra gli altri di personaggi come Coco Bill, Jack Mandolino e Zerry Kid. Marco Dabbà è presidente del PAF. Uno sguardo nuovo su quello che è stato uno dei più grandi geni del fumetto, non solo italiano, che noi qui al PAF abbiamo voluto, come dire, sezionare veramente dal punto di vista scientifico e critico, e si vede proprio questa cosa nelle 12 sezioni che abbiamo allestito. Voglio ringraziare Silvia Iacovitti, perché è la figlia del grande Benito, perché ci ha prestato queste 170 opere, e che sono un corpus veramente importante, probabilmente mai esposto così in maniera notevole, che sono tutte originali. La mostra, di cui è disponibile anche il catalogo, è curata da Valerio Bindi e Luca Raffaelli. Raffaelli, direttore artistico del PAF e co-curatore della mostra e del catalogo. Abbiamo cercato di analizzare quali sono i momenti magici di Iacovitti. C'è un suo segreto. Lui realizzava le tavole, le pagine a fumetti senza mai fare un segno a matita, senza scrivere una sceneggiatura prima, i dialoghi. Andava in diretta, direttamente a china sulla pagina. È veramente un metodo di lavoro unico al mondo. Nessun altro autore ha fatto in questa maniera. E realizzando i fumetti quasi come se fosse un flusso di coscienza immediato che andava dalla sua anima direttamente al foglio, ha creato questi mondi straordinari, tutti i suoi, in cui ci sono le linee di movimento, i suoni che si leggono. Molto spesso faceva intervenire i personaggi in maniera che parlassero direttamente al lettore, dicendo: ma com'è che Iacovitti si permette queste stranezze? Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:58 minuti. L'assistenza tecnica è stata curata da Andrea Fontanotte e da Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.